News, come direbbe Bubby. Anzi, il podcast è quello di New Funk, Linux Audio e Musica Libera, puntata numero 7. Abbiamo in collegamento Marco che ritorna dopo 3-4 mesi, mi sa. Ciao Marco. Ciao Bex, ciao Bubby e ciao a tutti. Ecco, infatti c'è in collegamento anche Vubbi da Torino. Ciao Vubbi. Ciao Bex, ciao Capapani, ciao a tutti. Sì, sono nuovo, tra virgolette. Sì, stiamo provando a fare questa conferenza in tre, vediamo cosa viene fuori. In questa puntata volevo subito parlare di un articolo di Polly Cook, che è un articolo che è uscito un mesetto fa e parla delle truffe e delle distribuzioni per artisti. Sostanzialmente, in un articolo di 10 righe, direi poco approfondito, dice delle cose in parte condivisibili e in parte secondo me no. Soprattutto il termine truffa, che secondo me non è giusto utilizzare perché tira dentro anche degli aspetti di volontariato. Per quanto riguarda ad esempio la pacchettizzazione dei programmi, e quindi mi sembra un brutto termine, anche poco argomentato. Però ha anche degli aspetti, secondo me, giusti, nel senso che una distribuzione multimediale ancora oggi, almeno per tutti, non è così usabile. E te, Marco, cosa l'hai letto l'articolo e cosa ne pensi? Allora, penso che è stato scritto un po' di fretta e mi ha un po' così schiazzato perché comunque Polly Cook è, insomma, è un musicista, quindi mi sarei aspettato un'analisi un pochino più approfondita perché ha detto, vabbè, due keyword, due parolacce, e insomma poi ha detto, vabbè, controcultura, controcultura, vabbè. Mi ha un po' così lasciato l'amaro in bocca, ecco, perché comunque c'è un lavoro. Come dire, molto intenso sul lato jazz, lato anche altre cose che non cito adesso. C'è un lavorone, insomma, sia da parte di Paul Davis, di tanti, diciamo, esponenti del software libero audio, ecco. Quindi quello che voglio dire è che comunque è stata un po' una sparata a zero, con anche l'immagine del topolino, eccetera, eccetera, il formaggio, insomma, quindi vabbè. A parte l'immaginetta un po', la trappola, insomma, non la truffa, qua addirittura si parla di trappola. Non è una trappola in realtà perché comunque noi lo usiamo assolutamente in modo così produttivo, ecco. Sì, e tu Dario, quali aspetti secondo te condivisibili trovi in questo articolo? Guarda, rileggendolo devo dire nessuno, io trovo che sia una provocazione bella e buona. Personalmente mi piacerebbe che lui si scusasse e chiudesse questa pagina, semplicemente perché così si sputtana semplicemente tutto quel lavoro di volontariato e di gente che comunque perde il proprio tempo, che come si sa non è mai tanto, dietro alla possibilità di permettere a chi usa Linux di fare anche musica. Una cosa così, ripeto, è dannosa perché l'immagine del topolino, del formaggio, cioè, veramente uno pensa che sia una perdita di tempo fare musica con Linux. Quindi, visto che il suo blog è molto in vista per tutta una serie di motivi, quindi personalmente, se fosse lui, ritornerei indietro o perlomeno cercherei di spiegare meglio il perché, perché 10 righe non dicono nulla. Mi sembra solo una provocazione, tutto qua. Sì, quindi noi non invitiamo Polly Cook a fare un bel articolo lungo e soprattutto argomentare punto su punto cosa intende con truffa e quali sono i motivi che lo spingono a dire che ci sono cose che non vanno e cose che non vanno ce ne sono un'infinità e anche magari dire le cose che vanno e anche quelle ce ne sono tante e noi siamo qui anzi se vuole parlare con noi, se vuole discutere, saremo felici di farlo. Ecco, tra l'altro leggo dai commenti, ne prendo ora, diciamo, perché non avevo più frequentato questa pagina. Io ho postato un commento, diciamo, sulla pagina dicendo che noi ci proviamo a portare avanti il discorso su audio e GNU Linux, e lui ci ha risposto dicendo che ci ha ascoltato in passato e gli piace l'angolo delle tecniche del suono. Questo è un po' una piccola schizofrenia, forse, perché c'è questo di volere distruttivo. E poi invece ci segue, insomma, appassionatamente, diciamo, quasi appassionatamente. Quindi, insomma, facciamo questa chiamata. Felipe, insomma, o Pollico, come ti vuoi far chiamare, fai un articolo un pochino più da Pollico, dai, più vecchio stile, ecco. Così possiamo effettivamente fare una critica costruttiva al mondo Linux Audio. Per rispondere a zero, insomma, è facile, ecco. E adesso lanciamo un brano e poi continuiamo la discussione sulle distribuzioni audio. Office, Unix X, son, aswifi. Elle court. Elle court bien malgré elle, bien malgré nous. Jour après jour, son pas la mène au pied du mur. Au bord de l'asphyxie, elle prend place. Inspire, expire. Comme on étouffe. Son extérieur au teint de glace, l'air vicié d'un gratte-ciel à la mesure du démentiel. Tout la presse, tout l'oppresse, quotidien purgé, en prison déguisée. Atmosphère au souffle court, elle perd le compte de ses jours. Baigne, se noie dans la tromperie du paraître hors de prix. Cadence des soupirs, gestes en rafale. Ses pieds combattent en croche, son cœur bat en retraite. Lumière des nuits qui aveugle sa soif de noirceur. Guidée dans une impasse, survivre au manque d'espace. Tout la presse, tout l'oppresse, quotidien maquillé, prison purgée, sans peine. Quotidien maquillé. De long en large, la soif d'ailleurs, soif d'un nouveau mirage, soif d'un nouveau mirage, de changer d'air, changer d'enfer. Dans le soir de ses intérieurs, en contrôle de 100 mètres carrés, à l'abri de tout détracteur, elle plonge aux quatre coins de ses secrets. Partir sans destination, sans peur, sans y penser. Partir pour y rester. partir à tout prix, sauf qui veut, qui peut sa vie, sauve sa vie à tout prix. Sì, quello che secondo me voleva dire, ma forse non si capisce, non si capisce esattamente, è che forse intendeva il fallimento e in un certo senso anche ragione delle distribuzioni orientate al multimediale. Io e anche Vubi e anche Marco, Marco usa anche Studio 64 se non sbaglio, però generalmente, poi mi correggerà, usiamo tutti e tre, ma gran parte della gente del canale non usiamo distribuzioni orientate, ma andiamo sui grandi filoni, quasi tutti usiamo Debian e Ubuntu e diciamo che le ottimizziamo noi per costruire un PC dedicato alla musica in modo piuttosto semplice, cercando di installare il kernel real time, di configurare la distribuzione il più leggera possibile, cercando di evitare demoni che occupano solo memoria e CPU, cercando di usare un window manager leggero. E sono quelle piccole cose che poi sono le cose che fanno le distribuzioni dedicate, ma che ci permettono di rimanere sul filone quello più usato. Quindi una Debian sicuramente viene usata da milioni di persone, una Studio 64 immagino da qualche decina di migliaia, e possiamo andare avanti con una distribuzione ancora più di nicchia ma sempre meno usate, quindi i bug potrebbero non essere così segnalati e risolti immediatamente. Se volete parlare delle vostre configurazioni che in genere usate, voi come vi comportate? Allora, dunque, io penso di aver avuto abbastanza fortuna con le distribuzioni orientate al multimedia, diciamo, in particolare all'audio, perché praticamente a parte, diciamo, il problema del kernel real time, io ho provato 64 Studio e ho provato Ubuntu, Debian anche, nel senso che comunque poi la 64 Studio l'ho fatta diventare una bella Debian, unstable tra l'altro, che poi vabbè, non è così unstable come il nome fa presagire, ecco. Però sostanzialmente io devo ammettere che non ho riscontrato particolari problemi, a parte il kernel real time, cioè che è il cuore, diciamo, del tuo sistema, e usandolo anche con GNOME, con cazzabubole varie, diciamo, compiz, tutte le varie cose, non ho riscontrato problemi neanche con una HDA Intel. Fatto sta che comunque bisogna, diciamo, impostare jack ad una latenza ovviamente un po' altina, fra virgolette, con queste schede, diciamo, integrate, mentre con una scheda firmware FA66 la latenza ovviamente è bassissima, è un qualcosa di spettacolare, adesso non ricordo più quanto, però dell'ordine proprio dell'istante, ecco. E niente, quindi sostanzialmente il mio principale problema, soprattutto con Ubuntu, non con 64 Studio, è stato il kernel real time, perché il kernel real time su Ubuntu fino a poco tempo fa, cioè fino al release 9.04, quella che è la giunta di Jackrop, insomma, mandava in crash, in freeze proprio, non in crash, in freeze il sistema. E quindi grazie a una config confezionata all'uopo da Bex, io mi sono ricompilato il kernel molto, diciamo, fra virgolette, semplicemente, quasi alla cieca, con il metodo standard Debian, diciamo, e niente, ha funzionato tutto in primo colpo. Quindi forse il problema principale delle distribuzioni Linux audio potrebbe essere, diciamo, il kernel alla fine dei conti, perché a livello di applicazioni mi sembra che ci siamo, a parte, vabbè, qualche instabilità o cose del genere, però con un'opportuna mano da parte nostra, da parte di, come dire, addetti fra virgolette, cioè chi c'è già dentro, forse si riesce a confezionare un sistema così decente, ecco. Non so cosa ne pensi tu, Carlo. Sì, invece sì, direi che riprendendo le parole di John Fitch alla Linux Audio Conference, anche lui diceva che ci sono tante cose che non vanno e tante cose che vanno. Per chi si avvicina al mondo Linux Audio, lui diceva che la cosa più importante è la scheda, e vi assicuro che una buona scheda è il primo passo per entrare. A livello hardware è quello che fa, può cominciare a fare la differenza, assieme al kernel real time, a jack, e quello è la base per avere un sistema solido e avere basse latenze, che sono le cose senza le quali sarebbe impossibile fare audio. Invece Dario, se non sbaglio, usa puro e duro con Debian. Ovviamente, da sempre. Non ho mai sperimentato distribuzioni dedicate. Comunque io ho una scheda, ho avuto sempre un'integrata, poi ho avuto una scheda Creative e adesso una scheda della Echo. In sostanza sono abbastanza d'accordo su quello che dice K. Il problema può stare nel kernel. Quello che forse viene a mancare è un kernel dedicato a chi vuole fare musica. Su Debian non c'è possibilità se non te lo ricompili, per tutta una serie di motivi che io ignoro, perché non mi ci sono ancora addentrato. Ho un kernel normale Debian e uno real time preso non so dove dalla mailing list che parla di musica su Linux. Personalmente, con una buona scheda audio devo dire che si riesce a fare musica, quindi è vero questa cosa. Avere dell'hardware buono è sicuramente un punto di partenza ottimo. Io uso Debian, Jack, uso Ardour, uso altri programmi. Devo dire, ho i miei problemi perché io sono un fanatico dell'UNS, come dice Bex, e con LMMS non mi funziona, non riesco ad avere jack e LMS insieme al mio sistema unstable, perché io praticamente aggiorno il sistema ogni giorno, quindi vado incontro ai problemi che sono quelli di un pacchetto appena messo su per tutti, con le conseguenze del caso. Al di là di questo, se devo registrare quello che io faccio, jack, hardware sono veramente una accoppiata fenomenale. Che ne dica Polly in quelle 10 righe, ecco. Dicevo, io uso anche Qtractor, che è un'altra delle possibilità, come a livello di sequencer e MIDI, eccetera, eccetera. Le possibilità ci sono. Bisogna... Secondo me ci vuole la killer application come GIMP per quello che riguarda la grafica. Hardware non è il MIDI, e secondo me finché non ci sarà un supporto MIDI degno di tale nome, per quanto riguarda il sequencer rimaniamo indietro. Questo è il mio pensiero, è quello che dico a tutti. Quando ci sarà Hardware 3.4, la versione che sarà con un supporto MIDI funzionante, allora forse si potrà pensare di combattere alternative che si pagano. Questo è il mio pensiero. Per il resto io sono più che soddisfatto di quello che riesco a fare. Quindi. E per quanto riguarda Ardour, la 3.0 Alpha, se non sbaglio, è programmata entro l'estate. Quindi sicuramente è morto, però sicuramente forse avremo una 3.0 e quindi supporto MIDI alfa, da tutto da testare, entro la fine dell'estate. Per quanto riguarda Ardour, Dave Phillips, volevo dire Paul Davis, ha fatto un altro post sul blog di Ardour dicendo che questo mese le donazioni vanno male. Quindi se vogliamo aiutare una, se non la migliore applicazione su Linux, sapete cosa fare. cosa fare, cioè tirare fuori i soldi, perché Paul Davis ci lavora a tempo pieno e ha una famiglia, e se non riesce a finire il mese, prima o poi potrà prendere delle decisioni, potrà cercare altre soluzioni per sbarcare il lunario, e questo sarebbe una terribile perdita. Ne parla anche Giorgio sul suo blog, come al solito diofilo.blogspot.com. No, beh, io spero semplicemente solo che non accada tutto questo, voglio dire, mi auguro che ci sia la possibilità che Ardour possa continuare il suo sviluppo, perché è veramente il prodotto migliore che abbiamo per quanto riguarda l'audio, quindi non so, in bocca al lupo, più di questo non mi viene da dire, ecco. Ah sì, volevo dire anche un'altra piccola cosa: se fate l'abbonamento mensile sono $10 al mese, quindi poco più di una birra, insomma, in euro quanto saranno? 7 euro, insomma, 2 birre top, quindi non è in effetti una grande spesa, insomma, se fate la subscription. Ok, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi riprendiamo. Office and your rabbits, some expected parasites. Adesso ci ascoltiamo la nostra classica rubrica che tutti ci invidiano, l'angolo del fonico a cura di Giorgio Bau. E chi vuole approfondire sul suo blog, audiofilo.blogspot.com. A te, Giorgio. Yeah. Buongiorno a tutti, questa è la nuova puntata dell'Angolo del Fonico, benvenuti. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa di particolare che non è nuovo a chi frequenta il blog audiofilo.blogspot.com. Questo argomento tratta di un software particolare che si chiama Mix, Mix con 3x. Il sito è mix.org, potete visitarlo e approfondire quello che vi sto per dire oggi. Mix è un software per DJ, quindi è un software che virtualmente sostituisce i due piatti o i due CD. Sostanzialmente si hanno due deck in cui si possono caricare brani e diciamo mixarli con funzioni di crossfade, di equalizzazione. Una cosa molto interessante di Mix è che è cross-platform, quindi può essere compilato anche per Mac e per Windows. E questo ha determinato un buon successo del software dal momento che è considerato dalla comunità dei DJ. Un'altra cosa buona di Mix è che, oltre a essere free e open source, è dotato del supporto per diversi controller e funzionalità. Se avete presente, esistono dei dispositivi tipicamente USB che si collegano al computer e permettono di controllare il software da DJ, quindi tipicamente potrete vedere non so, magari due cerchi di gomma che possono essere riconducibili al controllo, alla funzione di scratch o comunque di rallentamento del brano, oppure anche associati magari a degli effetti. Beh, ci sono questi dispositivi che rendono molto più facile la vita del DJ che arriva dai canonici piatti o CD, e quindi in questo modo trova un ambiente sicuramente più familiare. Io ho avuto modo di provare Mix con un'interfaccia della Hercules DJ Console MK2 che è pienamente supportata da Mix, soprattutto perché di recente, qualche mese fa, la Hercules ha pubblicato i driver per Linux per il suo dispositivo. Quindi ho avuto modo di provarla, ho visto con piacere che è supportata davvero bene, tutti i pot sono assegnati, tutti i controller sono assegnati a delle funzioni, quindi basta dire a Mix di utilizzare questa interfaccia e poi semplicemente muovendo i pot, i fader e le due rotelle si possono vedere già degli effetti sull'interfaccia di Mix. Trovo che sia un esempio abbastanza raro, nel senso che non è comune vedere un'azienda che crea dei driver per Linux prima di tutto, e non è neanche comune vedere che tutto funzioni out of the box, quindi sono stato piacevolmente sorpreso da questa cosa. Certo, Mix ha ancora alcune carenze. Ad esempio, Mix non supporta ancora il looping, che tanto caro ai DJ, cioè il riuscire a prelevare al volo una o due battute di un brano, ripeterle, mentre magari sopra questo loop si può creare qualcosa di nuovo, tipo mettere un tema o far suonare un musicista. Ecco, purtroppo questa funzione non è ancora supportata, ma se si spulcia in maniera approfondita il forum e comunque tutto il materiale riguardante la comunità di Mix, si può notare che c'è già gran fermento per questo tipo di funzione, e si auspica che il prima possibile Mix la integri in modo da diventare un software completo. C'è un motivo per cui io mi sono appassionato particolarmente a questa causa, la causa di Mix e all'MK2 della Hercules, perché secondo me è un esempio che bisognerebbe vedere più in maniera più ricorrente, cioè vedere un buon software scritto bene, poi una comunità compatta e un'azienda che crea il driver. Io penso in cuor mio che la Hercules non abbia fatto un driver a caso per Linux perché gli piaceva Linux, ma penso piuttosto che abbia notato questo software, che è sostanzialmente l'unico per DJ che esiste su Linux. Ne esiste un altro, ma è un po' abbandonato come sviluppo. E abbia notato che questo software fosse particolarmente buono e ci fosse interesse attorno. Per cui probabilmente la Hercules avrà pensato: se rendo disponibile la mia interfaccia per Linux in maniera semplice, e quindi scrivendo il driver, magari, che ne so, 100 in più ne vendo, 1000 in più ne vendo, 200 in più ne vendo. Ha provato questa scommessa e io sono piuttosto convinto che la vincerà, perché questa è la strada giusta. Molto spesso non si considera che quanti siano gli utenti Linux. Solo di Ubuntu ho letto di recente che gli utenti sono stimati attorno al numero di 10 milioni, ed è solo Ubuntu, che sicuramente è una delle distro più popolari, più supportate. Però consideriamo che non è la totalità degli utenti Linux, vogliamo dire che sono il doppio stando stretti, vogliamo dire che sono 20 milioni al mondo. Va bene, diciamolo, facciamo finta che siano 20 milioni al mondo, e comunque io penso che un'azienda che vende un dispositivo e non considera una fetta di mercato di 20 milioni faccia una scelta molto incauta. Quindi sono contento di vedere queste joint venture, diciamo non ufficiali ma ufficiose, che portano a questi buoni risultati. Io sono sicuro che mentre vediamo situazioni come quella di Jack Lab, che abbiamo visto di recente, in cui si è appreso purtroppo che Jack Lab chiuderà i battenti di fatto, e quindi vediamo anche ad esempio brutte notizie come ad esempio il fatto che Sai Institute non finanzi più il progetto di Ardour. Ecco, io vedo con gran piacere il fatto che in una parte dell'audio pro, che spesso non viene considerato, ovvero quello dei DJ, invece c'è fermento e paradossalmente un certo tipo di serietà, che invece vedo un po' mancare ultimamente nell'ambiente invece audio pro, inteso come quello di sound engineering. Io mi auspico che questa cosa possa succedere presto, nel senso che manca una distro di riferimento per chi vuole fare audio su Linux. Certo, ognuno si può configurare la propria macchina, è proprio questo il bello del nostro sistema operativo. Tuttavia, per chi si avvicina, non è facile compilarsi i programmi, non è facile scegliere il kernel corretto, non è proprio nella mentalità quello di risolvere i problemi guardando i forum, scrivendo, discutendo, dibattendo e utilizzando un sistema collaborativo. Quindi io penso che sia importante che ci sia un candidato credibile che di base offra un buon servizio audio. C'è 64 Studio, che sicuramente è buona, ci sono altre realtà. Ho visto di recente l'uscita di questa, che non è esattamente una distro ma è diciamo uno snapshot di Linux per l'audio, che si chiama AV Linux, che non ho ancora avuto la possibilità di testare. Vedo anche ad esempio che Ubuntu 9.04, leggo in giro, che abbia diversi problemi con i kernel real time. Insomma, sarebbe bello che ci fosse un candidato magari unico, serio, e che effettivamente dia questo supporto a chi si avvicina al mondo di Linux per quanto riguarda il lato audio. Ecco, io mi auguro nei prossimi mesi e nei prossimi anni di vedere sempre più questo tipo di unione, azienda che nota l'utenza Linux e la supporta più o meno direttamente, come ha fatto Hercules scrivendo di proprio pugno il driver corretto. Questa è stata una puntata magari meno didattica, meno tecnica del solito, tuttavia io sono molto convinto che anche questo tipo di puntate possano essere utili a capire cosa può essere importante all'interno del mondo audio Linux. Quindi io vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Angolo del Fonico. Per chi va in vacanza, buone vacanze, e ci si rivede tra un mese circa. Ciao, grazie. adesso riprendiamo. Volevamo parlare di un progetto che probabilmente non prenderà mai la luce, ma ne stiamo parlando da qualche mese sul canale IRC. Canale IRC che è esploso. Mi ricordo, adesso faccio una piccola parentesi, un anno fa eravamo io, Vubbi, fino a un anno fa, io, Vubbi, e ogni tanto Emillo, dai Easy e basta. E io? Non t'ho detto te, no, non t'ho detto. No, no. Te sì, ci sei sempre stato. Sì. E anche Vubbi, ormai sarà 2-3 anni che ci conosciamo. O no? Un paio di anni. Sì. Poi un paio di annetti, sì. Sono arrivato, non mi ricordo come, ma comunque ci sono arrivato. Adesso sono arrivati i pitondi che si moltiplicano come ricci. Sono arrivati a 4 pitondi sul canale. Ci sono Lorenzo, l'altro Lorenzo, Carletto e Francesca. Quindi abbiamo anche una donna sul canale. Una ragazza che usa Linux e suona anche. Cosa suona, lo sai? Credo la sbattera. La sbattera, wow. Una sbattera femmina. Sì, altra caratteristica dei pitondi è che 3 su 4 sono la batteria. Sono tutti la batteria, tranne uno dei due Lorenzi. Sarà un motivo, ma a noi non ci interessa. No, no, e tra l'altro però non condividono questi pitondi e la loro arte, insomma. No, ma ogni tanto rilasciano, ma sono timidi, credo. Sono timidi. Fanno tutto così di nascosto, sì, come i topolini. Sì. D'altronde, da cui deriva il nome. Niente, volevamo parlare di... Chiusa la parentesi. Volevamo parlare degli screencast. Cosa sono gli screencast? Chi è che lo spiega? Allora, gli screencast sono praticamente un modo per condividere una specie di how-to, così almeno rendo ancora meno chiara la cosa. Cioè praticamente un tutorial, un passo passo, che spiega visualmente come utilizzare un programma, come fare una certa cosa. Questo è molto utile per diciamo il flusso di lavoro, per imparare il flusso di lavoro da un'altra persona. Questo è veramente utile, nel senso che gli screencast sono diventati abbastanza famosi, soprattutto nel mondo così di programmazione, quindi non solo per insegnare come si usa un programma, ma per insegnare proprio il workflow, cioè quindi il flusso di lavoro per agganciare applicazioni, per registrare, quali applicativi utilizzare per fare una certa cosa, eccetera, eccetera. Sì, stiamo parlando un po' sul canale, e poi nessuno ha ancora cominciato, ci stiamo facendo tutte queste seghe mentali. Più che altro che qualcuno ce l'ha espressamente richiesto, e quindi come lezione, e Emillo ha scritto anche una specie di alcuni punti che per approfondire fare un minimo di corso di introduzione, di approfondimento sull'audio sotto Linux. Yes. And sound, so things. insomma no, si può pubblicizzare il festival di settembre. Ah già, è vero. Ecco, ottima idea, quella è una figata, il festival CC. Sì, peccato che lo fa di martedì, però a parte quello. Ecco sì. Che? Lo fa di martedì, lo fa. Ah, è proprio una... Perfetto, direi proprio. Secondo me rima contro farlo martedì, lo fa apposta. Ma perché non venerdì, sabato o domenica? Perché rima contro. E vabbè, ma se uno vuol venire è dura. E appunto, lui rima contro alla Creative Commons e lo fa di martedì per boicottarla. Cioè già mio cugino vuole guadagnare i miliardi, ancora che glielo propone il martedì. Vabbè. Vabbè, pazienza. Carlo, ci sono. Ci sono. Alto. Come sei alto? Sei basso o alto? Sì, sei un po' alto. Sono basso. Sei basso. Sì, aspetta. Ah, va bene, va bene. Poi... Ok, è giusto. C'ho anche la musica sotto. Cos'hai? Aspetta, levo la musica. Ah, la musica. Sì, sì. Il problema è che Carletto è toscano, quindi è un accento un po' così, quindi dovete un attimo fare mente locale per capire, ma ce la potete fare. Anzi, se qualcuno volesse proporsi, direi che vi può scrivere direttamente. Certo, assolutamente sì. Indirizzo? Assolutamente sì. info@pitondo.it, anche solo una cosina, anche solo per magari abbiamo avuto delle adesioni di artisti che magari ci danno qualche materiale da esporre, basta, anche se non potranno essere presenti fisicamente, ecco, ci farebbe piacere anche solo qualche opera o filmato a audio, foto, qualsiasi cosa da esporre, ecco. Ma se non lo lanci il festival, però non come fa a decollare? È vero, è vero. Ci va un po' di pubblicità. Che... Già lo fate di martedì, se non avete pubblicità. Appunto, capito. Cioè, si fa di martedì, si fa in un posto non un granché, perché quel rata, insomma, ci siamo aperti. Sì. E quindi tu stai boicottando il movimento del Bitcoin. Se lo fai di martedì, lo fai a Quarrata. No, il fatto è che se noi si riesce a no. Il nostro scopo è quello di mettere qualcosa, di fare un piccolo passettino verso gente dentro il comune, che insomma per questa cosa ci ha sentito, e quindi se noi si organizza per bene, cioè piccolo di dimensioni però fatto a modo, se invece si fa così, si sboroni e poi si arriva lì è una cagata, ci si gioca. Tu dici subito è una cagata, così poi se viene bene è tutto di guadagnato, se invece viene male tu metti subito in chiaro che è una cagata. Più che una cagata è piccolino, ecco, deve essere piccolino però perfetto. Sì, ma anche noi quando l'abbiamo fatto a Bressana Bottarone, che credo che sia l'equivalente di Quarrata delle nostre parti, si era in pochi, però almeno al pomeriggio si era in pochi perché la gente lavora, la sera un po' di più, anzi no, ce n'era di gente, ha suonato un po' di gente, è che era venerdì. Artist, the Nine Inch Nails song, the four of us are dying. il festival di Corrata lo rifacciamo. È un argomento del podcast, l'avevo fatto un po' meglio. Sì, dai, rifacciamo che veramente non so. Se no, se voleva venire due persone, non vengono. Dai, facciamo. Adesso mi segno. Ok. Allora, dicevamo che ci ha raggiunto in trasmissione Carlo Ascani, che abbiamo intervistato la puntata scorsa. Fa parte dell'associazione Pitondo, pitondo.it, per chi vuole avere altre informazioni, che sta organizzando un festival a fine estate in provincia di Pistoia, in quel di Quarrata, un festival a Creative Commons. E Carlo, ci vuoi parlare del festival? Sì, ciao a tutti. Allora, stiamo organizzando questa cosa per settembre, sarà l'8 settembre. In pratica sarà occasione di incontro con vari artisti delle più svariate attività, dagli scrittori. Ci sarà, crediamo, un regista di cortometraggi, un musicista, un fotografo, ecco, che ci racconteranno un po' della loro esperienza con questa licenza, con la licenza Creative Commons, appunto. Sarà interessante per chi ne sa poco, perché potrà, diciamo, avere delle spiegazioni dettagliate di come funziona questa licenza, sia per chi vuole approfondire, ecco, l'argomento, e magari, cioè, invogliare qualcuno proprio a iniziare a utilizzarla. Sì. E quindi adesso pubblicheremo anche sul nostro blog, quando ci darai i riferimenti, in modo da cercare di pubblicizzarlo. Abbiamo già detto che è l'8 settembre, se non sbaglio. Sì, sì. Provincia di Pistoia. Sì, è in provincia di Pistoia, è Quarrata, sono una decina anche meno di chilometri da Pistoia. Ma logisticamente, per chi arriva in treno, c'è la stazione a Pistoia, e da lì ci sono gli autobus, se no stiamo già preparando un mini servizio di trasporto noi, che ci sa. Sono tornato da mezz'ora dal blues. Chi è che suona stasera? Joe Stone, mi sa. Infatti volevo andare, ma... Vai. Però se mi tenete qui, vai, forse. Vai. Che va bene questo, vai. Cattivi. No, faceva schifo, non ho nemmeno detto c'è il concerto dopo. Va bene. E dopo cosa ci sarà? La sera. Concerto, sì, no, fai una cosa, prendi la prima parte questa, uh-huh, e poi ci attacchi quella prima dove dicevo del concerto. Se non ce la fai, me lo dici. Ma sì, che ce la faccio. Tecnicamente ce, no, la faccio. Se non c'è niente di ascoltabile, uh-huh, me lo, no, dici, vabbè, e ti mando qualcosa. Tanto poi al limite. Al limite niente, lo buttiamo via, che è il podcast più brutto dell'ultimo anno. E chiudiamo questa settima puntata del podcast con una canzone di Dave Phillips, ormai è un habitué del podcast, e noi ci sentiamo presumibilmente o a luglio, che siamo già a luglio. Agosto sarà dura, a settembre. Settembre probabilmente. Ciao a tutti. Volete salutare? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Office. See you again, Dave Phillips. So, when the money's no good. What you gonna do when the money's no good? When you can't buy bread and you can't buy shoes? Tell me what you gonna do when the money's no good and your dollar bill, it ain't worth a dime. Tell me how you'll pay all the creditors you owe. When they won't take cash and you ain't got gold, tell me how you're gonna pay all the creditors you owe when a dollar bill ain't worth a dime. Hey, what you gonna do when the money's no good, when you can't buy bread and you can't buy shoes? Tell me what you gonna do when your money's no good and the dollar bill ain't worth a dime. Where you gonna work when the jobs have all gone and you're still in debt? Well, you'll take what you can get, but there ain't no work 'cause the jobs are all gone and the dollar bill ain't worth a dime. So what you gonna do when the money's no good, when you can't buy bread and you can't buy shoes? Tell me what you gonna do when your money's no good and the dollar bill ain't worth a dime. I guess you'll have to live under government control, but you'll smile at me and claim that we're still free. But no, it ain't so under federal control, and your dollar bill still ain't worth a dime. What you gonna do when your money's no good and you can't buy bread and you can't buy shoes? Tell me what you gonna do when your money's no good and your dollar bill, it ain't worth a dime. Maybe you believe that it can't happen here, but it can, my friend. Just keep borrowing and spending money you ain't got, and it will happen here, and your dollar bill won't be worth a dime. Hey, what you gonna do when your money's no good, when you can't buy bread and you can't buy shoes? Tell me what you gonna do when your money's no good and your dollar bill ain't worth a dime. And $10 ain't worth a dime. $100 won't be worth a dime.